L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio, ritroviamo con piacere in questa puntata l'Ordine Nazionale dei Biologi per parlare di due argomenti che sicuramente vi interesseranno, perché parliamo in questa puntata di prodotti alimentari biologici e di integratori alimentari. Il nostro ospite è Pierluigi Pecoraro, nutrizionista, delegato nazionale alla nutrizione per appunto l'Ordine Nazionale dei Biologi. Benvenuto. Buon pomeriggio a lei, buon pomeriggio a tutti. Allora adesso io riassumo un po' perché siamo arrivati a parlare di questo argomento in questa puntata. L'occasione ce l'ha data Sana 2015, ovvero il Salone Internazionale del Biologico e del Naturale che si è tenuto a Bologna Fiere, e in questo salone sono stati resi noti dati molto interessanti sul biologico italiano: superfici, produttori, punti vendita della distribuzione al dettaglio e della ristorazione sono tutti indicatori in crescita anche per il 2014, e questo fa sì che la domanda di prodotti a marchio bio cresca ininterrottamente dal 2005. Questo lo confermano i dati dell'osservatorio Sana 2015, curato per il quarto anno consecutivo da Nomisma, e in forte crescita è anche l'export. Nel 2014 le vendite di prodotti agroalimentari italiani certificati bio all'estero sono state pari a 1,4 miliardi di euro. Il fatturato che arriva dai mercati internazionali rappresenta il 24% per le imprese bio, a fronte di un 18% registrato dalle imprese agroalimentari italiane nel loro complesso. Ma oggi non parliamo di fatturati, cercheremo di sfatare piuttosto, direi, alcuni miti del biologico, perché ancora, nonostante questa crescita esponenziale negli ultimi anni, molti consumatori hanno delle idee imprecise su che cosa sia un prodotto biologico e attribuiscono, direi, al biologico, non so se concorda con me Pecoraro, al biologico delle proprietà taumaturgiche, quasi quella addirittura di dimagrire, avete visto voi. È vero, sì, bisogna fare molta attenzione. Il biologico, io non sono né a favore né a contro, ben venga la notizia dell'aumento, perché fa bene insomma al nostro paese in questo momento, ma precisiamo che sicuramente da un punto di vista strettamente nutrizionale un prodotto biologico e un prodotto tradizionale sono praticamente identici. Ci sono alcuni studi che hanno dimostrato magari una maggiore presenza di alcune vitamine nel prodotto biologico, immagino per esempio se ci riferiamo alla frutta, però molto spesso questo dipende dalla specie, dalla tipologia, dal grado di maturazione, dal terreno in cui vengono coltivati. Quindi possiamo affermare quello che poi è emerso nel nostro congresso che abbiamo tenuto all'interno del Salone Internazionale, che da un punto di vista strettamente nutrizionale non c'è nessuna differenza, né a maggior ragione ci può essere una differenza per quanto riguarda le chilocalorie. Quindi non è vero, sfatiamo sicuramente questo mito che mangiare biologico fa dimagrire. Ha tutta un'altra serie di proprietà, ma non c'entra niente sul discorso dimagrimento. Allora ricominciamo un po' dall'inizio. Che cos'è un prodotto biologico? Appunto, lei già un po' l'ha accennato, però certo, chiariamolo. Certo. Prodotto biologico praticamente è un prodotto che viene coltivato senza l'utilizzo di sostanze chimiche, come possono essere i concimi, insomma i fertilizzanti o gli anticrittogamici che vengono utilizzati comunque nella coltura tradizionale. Possono essere comunque utilizzati, ma con dei grossi limiti, come anche per esempio se ci riferiamo agli alimenti di origine animale biologici, come può essere per esempio la carne, devono provenire da allevamenti in cui il bestiame viene praticamente allevato con mangimi di natura biologica allo stesso modo. Quindi abbiamo tutta una famosa oasi biologica di cui si sentiva la pubblicità qualche anno fa. Certo. È importante sottolineare come poi anche per quanto riguarda la carne, voglio dire, le proprietà nutrizionali restano comunque uguali. Il grosso vantaggio, io sono di questa opinione, delle produzioni biologiche è quello della salvaguardia dell'ambiente. Cioè effettivamente con un'agricoltura biologica, con gli allevamenti biologici, è chiaro che non mettiamo in circolo né nell'aria, né nel suolo, né nelle falde acquifere dove poi possono penetrare sostanze chimiche, e quindi riusciamo ad avere una tutela dell'ambiente a 360 gradi. Quindi la prima tutela che facciamo con comprando un prodotto biologico è verso l'ambiente più che verso, diciamo, quello che ingeriamo. Verso la salute, assolutamente, sì, è questo proprio insomma il concetto che io a cui tengo tanto, cioè facciamo soprattutto bene al nostro pianeta, facciamo soprattutto bene al nostro ambiente. È chiaro che un'alimentazione priva di sostanze chimiche come possono essere quelle presenti negli alimenti tradizionali probabilmente hanno un effetto, diciamo, salutistico, però questo non lo possiamo affermare perché Il contrario sarebbe dire che fino adesso tutti i prodotti tradizionali che consumiamo fanno male alla salute, non è assolutamente vero, perché anche sui prodotti tradizionali, sebbene vengono utilizzati sostanze chimiche per la concimazione, per insomma, i veleni, per uccidere tutto ciò che possono essere insetti e parassiti, in ogni caso ci sono dei controlli molto stretti da parte delle autorità competenti, che sono le USL, che sono le ASL, che sono comunque in AS, per cui praticamente il prodotto tradizionale da un punto di vista della sicurezza e della salubrità è assolutamente sicuro, questo mi sento di dirlo per tranquillizzare comunque tutti quanti. Quindi abbiamo detto fino adesso i prodotti sono entrambi ovviamente sicuri perché ci sono dei controlli, il Perfetto. Beneficio che facciamo lo facciamo principalmente verso l'ambiente, tanto più se stiamo attenti a comprare un biologico a chilometro zero. No, perché certo. Poi c'è il biologico magari della grande distribuzione che non è a chilometro zero. E infatti quello, l'altro aspetto invece importantissimo del biologico è proprio la riscoperta della tradizione, cioè dell'attaccamento anche alla propria terra in cui vengono poi coltivati questi prodotti alimentari, e quindi probabilmente si riscopre un mondo che sono le cosiddette anche qualità organolettiche, quindi i profumi, gli odori, i sapori, che chiaramente possono essere diversi legati soprattutto al consumo di un alimento che è prodotto, comunque che è raccolto e mangiato immediatamente. E quindi poi da qui si potrebbe innescare magari anche il discorso di recupero di varietà antiche che per altri scopi magari non sono utili. Assolutamente sì, questo è un altro concetto fondamentale, e poi è un concetto che io mi sento sempre di legare alla dieta mediterranea. Chiaramente la dieta mediterranea, che è basata anche su il consumo di cibi, di alimenti freschi, e quindi del cosiddetto chilometro zero. Chilometro zero significa quindi coltivazione vicino al posto in cui si risiede. Quindi anche in questo modo possiamo anche aiutare un po' a incrementare l'aderenza alla dieta mediterranea, che sembra nel nostro paese Italia ormai essere un po' abbandonata. Altri falsi miti che avete incontrato, come quello appunto del biologico che fa dimagrire, vogliamo sfatarli? Ce ne sono di molto diffusi magari? Sì, qualche cosa che alcune indagini che poi abbiamo anche condotto, per esempio per legge nei prodotti biologici non ci possono essere OGM, quindi l'altro grande tema, no, degli alimenti modificati geneticamente, e che non possono essere presenti negli alimenti di origine biologica. Però anche qui il fatto che non c'è la presenza di OGM non lo possiamo legare assolutamente a un beneficio sul sovrappeso o sull'obesità. È vero che il nostro paese, insomma in Italia, quasi il 50% della popolazione è in sovrappeso, e questa obesità è anche in forte crescita nei bambini, ma sicuramente il rimedio a questo grosso problema dell'obesità o del sovrappeso non lo possiamo legare né al biologico né al free OGM, ma sicuramente a una modifica degli stili di vita nel complesso, quindi sana e corretta alimentazione e attività fisica restano sempre i temi principali da perseguire per cercare di ridurre l'obesità nella popolazione italiana. Che poi quello del peso è un tema che affrontiamo tra poco anche quando parleremo di integratori alimentari. C'è sempre questa tensione ormai verso una forma fisica che appunto per i bambini magari si manifesta nel tema dell'obesità, che è un tema assai più grave di quello della bellezza, che è quello invece verso il quale si rivolgono di più gli adulti. Certamente, sì, infatti l'altro grosso tema importante che è stato anche trattato poi nel nostro congresso e quindi anche in tutto il Salone Internazionale di Bologna è quello degli integratori alimentari. Molto spesso non anticipi troppo che poi ne parliamo, era solo appunto perché tutto fa parte di un tema ampio della nutrizione, degli stili di vita, delle nostre paure, delle tensioni, diciamo, della società, ecco, che ci portano addirittura a credere che il biologico ci possa far dimagrire, quando in realtà si tratta di tutt'altro tema. Ecco, l'ultima questione, diciamo, che vorrei affrontare in questa prima parte in cui parliamo di biologico è anche quella che lei ha accennato prima dell'OGM, perché si ha l'idea dell'OGM sempre legato a un qualcosa che nasce in laboratorio, che ha che è di mostruoso e di spaventoso perché nasce nelle stanze degli scienziati, così. In realtà molto di quello che noi conosciamo e consideriamo tradizionale è geneticamente modificato dall'attività dell'uomo, dagli incroci che sono stati fatti. Alcune varietà, insomma, che ormai consideriamo tradizionali, in realtà non sono tradizionali, spontanee, naturali, ma sono frutto di incroci, no? perfettamente d'accordo, ma infatti noi dobbiamo il famoso cercare... pomodoro pachino che noi adoriamo. Perfetto. Tutti certo, no, ma infatti alla fine noi dobbiamo sempre guardare queste innovazioni, no, della produzione tecnologica, dell'ingegneria genetica, comunque un qualche cosa che ha chiaramente dei lati positivi, che può avere anche dei lati negativi. Io sarei dell'idea di soffermarci sempre su quella che è la positività di un'innovazione. No, nel caso dell'OGM o del biologico, comunque la positività è l'innovazione, questa tendenza verso, ecco, una tutela globale, cioè una sana e corretta alimentazione vista a 360 gradi, che va a tutelare anche quello che può essere l'ambiente circostante. E anche nel caso degli OGM, stesso discorso, insomma, attenzione, perché ci possono essere appunto delle variazioni nella qualità nutrizionale o di alcuni nutrienti dell'alimento che viene modificato geneticamente, ma talvolta questi aspetti possono anche migliorare quella che è la qualità nutrizionale di un alimento. Quindi cerchiamo sempre di cogliere quelli che sono gli aspetti sicuramente positivi. Che ci sono, come è giusto che ci sia in ogni cosa, insomma, vanno valutati scientificamente, direi. Voi avete proprio questo compito, tra l'altro, all'interno. Ma infatti, diciamo, poi la nostra professione, insomma, nasce proprio come ricerca biomolecolare, come ricerca di base, quindi come biologi, anche come biologi nutrizionisti. Quindi il nostro compito è proprio quello anche di fare una divulgazione che sia corretta scientificamente, quindi sfatare quel mito di cui abbiamo parlato all'inizio del nostro colloquio, che abbiamo come affrontato come tema anche principale del nostro congresso. È fondamentale proprio per far capire che poi, ecco, alcuni miti vanno sfatati, ma vanno sfatati con una solidità scientifica che deve essere appunto dimostrata. Allora, io la ringrazio, le chiedo di stare in linea con noi ancora qualche minuto, c'è una pausa e poi, come promesso, parliamo di integratori. Radio24.it è sempre con te, anche in viaggio. Consulta la mappa del traffico aggiornata in tempo reale. Potrai conoscere la viabilità del luogo in cui ti trovi e avere tutte le info su code, cantieri e altre criticità. Clicca su Mappa e scopri il nuovo servizio su radio24.it. Radio 24, la passione si sente anche in viaggio. L'altro pianeta. Ancora un buon pomeriggio da Laura Bettini, siamo in compagnia in questa puntata di Pierluigi Pecoraro, nutrizionista, delegato nazionale alla nutrizione per l'Ordine Nazionale dei Biologi. Abbiamo parlato nella prima parte di questa puntata di alimenti biologici, se volete riascoltare troverete tutto su internet a partire da lunedì nella pagina del programma L'Altro Pianeta. Adesso parliamo di integratori alimentari. E sono sempre più in voga, vero Pecoraro? No? Ci se ne vendono sempre di più. Di grandissima attività. Ecco, da un punto di vista della nostra economia, come abbiamo detto, per i prodotti biologici, ben venga anche se ci sia, insomma, un aumento della produzione anche dell'industria degli integratori alimentari che cresce e che quindi aiuta la nostra economia. Però attenzione anche agli integratori alimentari, spesso ce n'è un abuso, spesso si consumano senza che poi magari ci sia effettivamente un'efficacia rispetto al motivo per quale l'ho acquistato. Quindi dobbiamo andare sempre con molta prudenza. Quali sono quelli che si vendono di più? Ma sicuramente quelli più venduti sono quelli per il dimagrimento, tra virgolette, cioè tutti questi integratori che vengono venduti e pubblicizzati per la diminuzione del peso corporeo. E poi c'è invece tutta l'altra categoria che utilizzano molto spesso gli amanti, no, del fisico, della bellezza, che magari nelle palestre cercano di migliorare il proprio fisico utilizzando integratori alimentari che molto spesso però sono inutili, a volte possono anche essere dannosi. A me preme, ecco, l'invecchiamento sarà sicuramente anche il terzo. L'invecchiamento, il terzo grande settore è quello anti-aging, dove ormai, insomma, si parla tanto di antiossidanti, di sostanze antiradicali liberi, e quindi anche in questo settore c'è una grande espansione. Ora attenzione, dicevo, perché l'integratore alimentare proprio per definizione è un concentrato di sostanze che deve integrare la comune dieta. In questa definizione c'è un concetto fondamentale, cioè tanto l'integratore può svolgere la sua azione tanto se è considerato nell'interno di una dieta sana e bilanciata, cioè non può mai essere considerato un integratore alimentare come un sostitutivo dell'alimento, cioè questa è una cosa assolutamente negativa. Molto spesso è successo in passato, vedere delle pubblicità di integratori che promettevano chissà quali miracoli, chissà quale trasformazione del corpo, ma assolutamente falso. Gli integratori vanno sempre integrati all'interno di una sana e corretta alimentazione, che già di base deve essere definita per singoli casi anche da un bravo nutrizionista, che è capace poi di aggiungere quegli integratori specifici laddove ci possono essere delle carenze. Ma le carenze come le si possono, diciamo, avere? Nel senso, se uno ha una corretta alimentazione non dovrebbe avere le carenze, oppure dipendono infatti, da cosa? Benissimo. Uno che riesce a seguire una sana e corretta alimentazione, già con una dieta riesce a soddisfare tutti quelli che sono i bisogni energetici e nutritivi. È chiaro che ci possono essere situazioni particolari in cui magari un soggetto non può seguire per tutta una serie di motivi una sana e corretta alimentazione, allora magari in quel caso io posso andare a colmare quel vuoto, quel buco, magari con un integratore. Quindi soggetto, scusi se le interrompo, ma per chiarirsi, insomma, un soggetto, non so, allergico a qualcosa, quindi io integro con qualcosa. Più che allergico, magari un soggetto che per particolari magari motivi di stile di vita particolare, immagino dei lavoratori particolari che magari hanno dei turni un po' stressanti, notturni e così via, quindi non riescono poi a avere un ritmo anche, no, segnato dal nostro orologio biologico nell'assunzione di pasto, allora in quel caso può essere utile un integratore. Ok. Però poi abbiamo, se posso continuare, certo, un'altra categoria che negli ultimi anni è molto importante, che rientra sempre nella categoria degli integratori, ma che sono i cosiddetti nutraceutici, che sono delle sostanze bioattive che si differenziano dai farmaci proprio perché, voglio dire, sono delle sostanze bioattive e sono comunque registrate come integratori alimentari. Queste sono sostanze che a volte possono aiutare anche i nostri pazienti, più che pazienti, i nostri utenti che hanno delle patologie cosiddette borderline. Immagino per esempio una dislipidemia, un colesterolo che ha i limiti alti ma ancora nella norma. In quel caso magari alcune sostanze bioattive possono aiutare a modificare e a livellare il profilo lipidico al di sotto dei valori soglia. Ma qual è la differenza tra l'integratore e il nutraceutico? Allora, da un punto di vista commerciale non c'è nessuna differenza, perché sono comunque venduti e registrati previa autorizzazione del Ministero come integratori alimentari. La differenziazione è da un punto di vista scientifico, quindi come dicevo prima il nutraceutico è questa sostanza attiva che praticamente può migliorare, insomma, lo stato di salute e di benessere di una persona laddove ancora, diciamo che è un po' il farmaco, tra virgolette, della persona sana, cioè, mi piace utilizzare questa formula che voglio dire fa capire meglio, insomma, quello che può essere la definizione di un nutraceutico. Quindi non è un sostitutivo della medicina, ma può aiutare a migliorare lo stato di salute in quelle situazioni borderline in cui non c'è necessità del farmaco, ma sempre seguendo una sana e corretta alimentazione, il nutraceutico può dare quel quid in più per completare questo miglioramento dello stato di salute. Quindi è uno scalino sopra, diciamo, l'integratore? Da un punto di vista scientifico sì, a me non piace proprio dirlo così, perché la nostra normativa sia in Europa sia in Italia ancora li classifica allo stesso modo. Ma perché è rimasta indietro e pensa che poi li differenzierà in futuro? Oppure probabilmente ci sono, insomma, delle scuole di pensiero, chiamiamole così, che probabilmente andranno verso una differenziazione tra l'integratore e il nutraceutico, anche se poi di per sé il nutraceutico deve essere comunque una molecola, comunque un estratto alimentare, perché sta proprio nella definizione nutraceutico, quindi appunto deve essere un nutriente, e quindi è qua la difficoltà nel differenziarlo poi dall'integratore alimentare, che come abbiamo detto prima per definizione è una concentrazione di sostanze, di nutrienti, eccetera, che possono svolgere un effetto fisiologico sull'organismo. È un po' complicato capire la differenza tra l'uno e l'altro, perché già bioattivo io faccio fatica a capire cosa vuol dire bioattivo. È un po' complicato tutto in Italia o comunque in Europa, però purtroppo, insomma, queste regole così rigide nel nostro paese sono state sempre un po', tra virgolette, il nostro orgoglio, cioè ormai non si sentono più in Italia da tanti anni casi di intossicazioni alimentari o casi, no, praticamente di situazioni in cui l'alimentazione ha prodotto dei gravi danni alla salute e così via. E questo anche grazie, ecco, ai controlli che in maniera costante, in maniera sempre precisa, fanno tutte le autorità competenti come diceva anche a proposito del biologico, le nostre ASL, il nostro comando dei NAS, e quindi tutte quelle che sono il Ministero quindi della Salute, ma anche quello delle politiche agricole, che con grande attenzione controlla e fa un monitoraggio a 360 gradi su tutto quello che è la produzione e poi il consumo quindi di alimenti in Italia. Dunque, un'altra curiosità riguarda su dove si vendono gli integratori, lo sappiamo benissimo, anche nei supermercati, nutraceutici anche nutraceutico, sì, perché... essendo equiparato all'altro. Perfetto, perfetto, avendo quindi... Credo di essere stato abbastanza chiaro, perché è difficile, però il concetto è quello, sì. Essendo comunque registrato e quindi come previa autorizzazione ministeriale come integratore alimentare, viene venduto negli stessi canali in cui viene venduto per l'integratore alimentare. Quindi io se ritengo di avere una carenza, vado e me lo scelgo, ecco. Non... Eventualmente sì, in maniera autonoma. Sì. È chiaro che ci sono delle indicazioni specifiche su tutti i foglietti illustrativi in cui in particolare situazione bisogna comunque consultare il medico. Io dico attenzione, mi permetta di fare un appello invece importante, perché molto spesso questi integratori alimentari vengono acquistati su internet, vengono acquistati magari in luoghi dove non sono appunto idonei alla vendita di integratori alimentari. Gli integratori alimentari sono venduti e devono essere venduti o comunque al supermercato, ma il supermercato comunque, pur se non ha più l'autorizzazione sanitaria come qualche anno fa, ma deve avere comunque particolari requisiti per poter conservare e vendere un integratore alimentare. Molto spesso questo succede anche in tante palestre che non hanno nessuna spazio idoneo a poter vendere questi integratori, o ecco, ancora peggio, vengono acquistati tramite internet, quindi senza nessuna garanzia, perché là, voglio dire, molto spesso sono dei prodotti che escono fuori dai controlli. Certo, non hai garanzia sulla produzione, sulla conservazione. E su questo, per esempio, ci sono stati dei casi eclatanti di persone che hanno acquistato degli integratori alimentari, si è riscoperto poi dopo che sono state ricoverate per episodi di ipertensione, questo è successo qualche anno fa in provincia di Torino, e analizzando e chiedendo a questi 5 pazienti ricoverati con questi episodi di ipertensione che cosa avevano consumato questi integratori, e li hanno fatti analizzare e hanno scoperto che all'interno c'era un farmaco. E quindi voglio dire, non era un integratore, ma ecco, essendo sfuggito al controllo, ma con questo acquisto parallelo tramite internet, si erano ritrovati all'interno, pur di magari aumentare le vendite e dare un effetto che non può dare l'integratore ma che può dare un farmaco, era il caso di alcune sostanze dimagranti, avevano praticamente introdotto all'interno dell'integratore un farmaco, una molecola farmacologica che è assolutamente vietato. L'ultima domanda che le faccio, lei un effetto negativo me l'ha già detto, ma per quello che riguarda i canali non autorizzati, diciamo, alla vendita, effetti negativi invece di abuso di integratori, di nutraceutici, poiché appunto li compro da solo, me li gestisco da solo, ci possono essere? Assolutamente. Esempio, ci sono dei prodotti che molto spesso vengono acquistati, comunque venduti come drenanti, no? Magari soprattutto nel sesso femminile, voi donne magari avete un po' di gonfiore, la fissa della cellulite, state con e allora qualcuno autonomamente va addirittura sui diuretici, insomma, cosa da sconsigliare vivamente, ma molti poi acquistano magari dei prodotti drenanti con un effetto anche importante. Chiaramente in quel caso un abuso rispetto a quello che è la dose consigliata, che deve essere comunque scritta effettivamente nel foglietto illustrativo dell'integratore, può essere dannoso perché può avere dei cali pressori e quindi andare in ipotensione. O magari in quei pazienti che sono magari in trattamento anti-ipertensivo, allora anche in quel caso bisogna fare attenzione, perché magari l'associazione di chi è in terapia con un antipertensivo insieme magari a un integratore che ha un effetto drenante potrebbe, insomma, rischiare di grosso con un calo della pressione anche molto importante. Io la ringrazio, ricordo il nostro ospite è stato oggi Pierluigi Pecoraro, nutrizionista, delegato nazionale alla nutrizione per l'Ordine Nazionale dei Biologi. Appuntamento, insomma, a presto, alla prossima occasione. Con grande piacere, un saluto a lei e a tutti gli ascoltatori che ci hanno ascoltato con pazienza. Alla prossima, arrivederci.